tentato e cado. Quando io faccio il male che non voglio, mi pento, mi tolgo e m'abbandono al tuo perdono. Oh Padre buono, ci doni il tuo abbraccio, ci dai coraggio, che grande amore hai mio Signore. Misericordia sei.